sto aspettando che ci salti, che riscaldi un po' il saldatore per farmi un coso, uno spezzone, capito, per controllarmi le stazioni aria e adesso, tanto il capo ce l'avevo, due piedi ce li ho e mi riscaldo piano piano. Quello l'ho utilizzato per fare quella questione là, capito? Là. Vabbè, metti il capo di mettere solo la vecchia, già pronti o così. Ne do un altro, lo usi, due, sei cose di buona salva. Non c'è problema, già ce l'ho di quelli, non c'è una scelta. E vabbè, no, non è quello, vabbè, tanto ce l'avevo. Adesso me lo faccio uno e... No, tanto, era per tenerlo pronto, capito? Se non tenevolo dentro il cassetto senza essere fatto, capito, almeno con lo salto piano piano e me lo faccio piano piano, perché non è quello il problema. Chiamalo so fare, non è quello lì il problema. Guarda, ma dove si è il caso? Perché non si vede la segnale, no, fra. Non lo vedo fuori quando, 9:25. Ciao, guagliava. Un po' così, brutta a trovarmi una bella Roma stamattina. Una cosa, meglio così. Gaffa, ho passato 5 minuti, cioè, ma un'oretta questa non c'era niente dopo quando sei andato uscito fuori. Il lavoro. Siamo a bene, dai. Già lo sai che è giunto. Non lo sai che è venuto, ma... Quando dico via con il vava già compreso. Lo sapevo, siamo sentiti subito dopo quando è andato via da lì, ci siamo sentiti malavetto che lì. Non c'è problema, a me mi formano sempre tutto. Non problema. No, io ero in giro pure in fretta, tu se non sarei passato stamattina. Perché ho intravisto la macchina lì ferma quando però sarei a casa. Però poi ero in fretta, no, non mi sono potuto fare. Vecchietto, buonasera. Giuseppe, no, te già ti ascolto, dai. No, invece quando ti allontani un po', no? Cioè tutto il disturbo, senti il disturbo di questa cosa che c'è nell'aria, capito? Ma di questa specie di propagazione che c'è in giro, capito? Ecco, dai, non è pulita la frequenza, capito? Thank you. le chiavi più buone sono le Cruma Radium, perché sono conosciutissime. I cacciavitti Cruma Radium sono buoni, niente da dire, ma sono buoni. Beta, Usac, che per quelli sono buonissimi, e la Tallinn, che è infallibile. Tutte gli altri sono così, dai. Ce n'è attrezzature, ma c'è forse dei cacciavitti, io aspetta. E quelle chiavi che facevano la betta erano buone? Sì, sì, la fanno tuttora, però che cosa una marca di soldi costano. Sai cos'è? La gente ha qualità a prezzo, perché sono buone, lo stesso, preferisce più prendere il tuo vanadium. Ma certo che sì. Certo che sì. E fra un po' adesso non mi sdraio 10 minuti e no, sdraiato mi guardo la televisione e poi riprendo con il baracchino, dai, ci sentiamo più tardi, dai. Buona Mini 144 a tutti e ci sentiamo più tardi se coincide, dai, ciao ciao, guardi per me. Ciao Giuseppe, ciao, e anch'io ho fatto, ci sentiamo più tardi, non so quando che sei in giro tu, ci sentiamo più tardi, è tutto acceso qua, non c'è problema, mi allontano un pochino e ci sentiamo dopo. Ciao Antonio, ciao Giuseppe. Ciao Giorgio, ce la risentiamo. Ok, dai, ti lascio andare a due.